Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica di Gigi Telesco. Buon pomeriggio a tutti da Gigi Telesforo, ben ritrovati su Radio 24, pronti per la puntata numero 53 del nostro soundcheck, la nostra prova del suono, che oggi vede in apertura il sassofonista Craig Handy, sassofonista molto piacevole soprattutto in questo album nuovo per la OK distribuzione Sony, album intitolato Second Line Smith, proprio perché Craig Handy, appassionato di Jimmy Smith e del suo organo Hammond, mette insieme questi due concept, il sound di New Orleans, l'organo Hammond, ed eccoli qui, Second Line Smith. Craig Handy appartiene a quella generazione di musicisti che hanno vissuto il post-bop e l'hard bop, militando anche in una super band come quella di Art Blakey e Jazz Messengers. Art Blakey, batterista storico del jazz, nei suoi Jazz Messengers ha svezzato intere generazioni di meravigliosi artisti, a partire da Herbie Hancock fino a Joe Anderson, Lee Morgan e fino a Wynton Marsalis, musicista che Craig Handy ha incontrato e conosciuto proprio durante i concerti fatti con Art Blakey. Craig Handy, oltre a essersi divertito in produzioni discografiche a fianco del batterista Elvin Jones oppure di Betty Carter, con i suoi colleghi sassofonisti Joe Anderson, George Adams, avendo anche una bella faccia, è stato scritturato nel 1996 per interpretare il ruolo di Coleman Hawkins in un film bellissimo intitolato Kansas City. Craig Handy arriva qui al soundcheck di Radio 24 accompagnato dalla sua nuovissima band, tutti ragazzi strepitosi, ma fra i ragazzi c'è anche una bellissima signora, la nostra amica Didi Bridgewater, che ci fa ascoltare la sua voce interpretando un classico del jazz come On the Sunny Side of the Street per Craig Handy and Second Line Smith in apertura del soundcheck di Radio 24. Grab your coat and get your hat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear the pitter-pat? And that happy tune is your step. Life can be complete. Il suono di Craig Handy and Second Line Smith con la voce di Didi Bridgewater, ospite di questo nuovo album per la OK distribuzione Sony, in apertura del soundcheck di Radio 24. Adesso facciamo una breve pausa e torniamo con la voce bellissima di uno dei protagonisti dell'attuale scena R&B. Si chiama Anthony Hamilton, fra pochissimo qui su Radio 24. Soundcheck. Check, check, one, two. Il suono della musica. Soundcheck. Il suono della musica. La malinconica Pass Me Over, tutto il gusto del gospel per questo campione della vocalità contemporanea Anthony Hamilton, classe 1971, nato a Charlotte in North Carolina. A 10 anni Anthony Hamilton era già la voce solista del coro gospel della chiesa che tutte le domeniche frequentava insieme alla sua famiglia. E a 20 anni Anthony Hamilton si sposta naturalmente a New York e lì incontra Roy Hargrove, entra a far parte degli Arrange Factor di Roy Hargrove, band che coniuga jazz e rhythm blues, e dagli Arrange Factor di Roy Hargrove alla super band di D'Angelo il passo è breve, e con D'Angelo Anthony Hamilton gira il mondo, si fa apprezzare non solo come corista, come cantante, ma anche come autore di testi e compositore di melodie antiche e immortali dal sapore sempre gospel e rhythm blues. E oggi le composizioni di Anthony Hamilton sono richieste anche da produzioni televisive importanti tutti vedi quelle realizzate dal comedian Dave Chappelle, che ha sempre bisogno di Anthony Hamilton per i suoi show, oppure anche Quentin Tarantino, per esempio, ha commissionato a Anthony Hamilton uno dei brani portanti dell'ultimo film, l'ultimo capolavoro, Django Unchained. Anthony Hamilton ha 5 figli, 2 gemelli, continua a girare il mondo, continua a scrivere musica, lo fa assiduamente e lo ha fatto anche per Robert Glasper, e infatti qui li apprezziamo tutti e due, il pianista Robert Glasper dal nuovo album Black Radio 2 con Anthony Hamilton in questa composizione scritta a 4 mani dal titolo Yet to Find, già anteprima qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Check, check, one, two. Il suono della musica. Soundcheck. Il suono della musica. Al Soundcheck di Radio 24 arriva il chitarrista John Scofield, uno dei miei preferiti, veterano e reduce del periodo jazz rock, quello che si sviluppò dalla fine degli anni 60 a opera di band come Weather Report di Joe Zawinul e Wayne Shorter, oppure la Mahavishnu Orchestra di John McLaughlin. Il suono del jazz rock era anche quello della super band guidata da Billy Cobham con il tastierista George Duke, nella quale infatti fa la sua prima apparizione proprio un giovanissimo John Scofield, chitarrista tipicamente blues, conosce il linguaggio del jazz, con un grandissimo amore, una grandissima passione per James Brown e gli Earth, Wind & Fire, questo giovane musicista inizia a muovere i primi passi proprio in questo periodo storico di fusione musicale, e nel 1982 riceve la benedizione sul campo da Miles Davis, che lo porta con sé in tournée per un paio di stagioni, fin quando John Scofield, proprio avendo frequentato l'improvvisazione tipicamente jazz con Miles Davis proposta su groove ipnotici, si convince che quello può essere anche il suo marchio di fabbrica. Oggi, da un punto di vista chitarristico, John Scofield è considerato un maestro, un vero master, ha il suono nelle dita, così come ce l'hanno Pat Metheny, Mike Stern, Johnny Abercrombie, Bill Frisell, tutti chitarristi più o meno della sua generazione, e Scofield ha sfornato almeno un paio di generazioni di nuovi talenti attraverso i suoi album sempre molto divertenti, accattivanti da un punto di vista ritmico, ma assolutamente non banali. E bellissimo è per esempio l'album che è stato prodotto per lui da Steve Jordan, batterista pirotecnico devoto anche lui al funk, che realizza per Scofield un tributo a Ray Charles, John Scofield Plays the Music of Ray Charles, That's What I Say, dal quale ascoltiamo un classico di Ashford & Simpson in versione strumentale per la chitarra di John Scofield, intitolato Let's Go Get Stone, qui al Soundcheck. Get Stone, brano scritto da Ashford & Simpson per Ray Charles moltissimi anni fa, qui nella versione contemporanea del chitarrista John Scofield, prodotto dal meraviglioso Steve Jordan, batterista che oggi produce anche una star di prima grandezza come John Mayer, chitarrista, cantante che viene dal blues dopo aver sentito un disco di Stevie Ray Vaughan. Nato nel 1977, ha frequentato soltanto per un anno John Mayer la Berklee School of Music Music di Boston, per poi abbandonarla per dedicarsi subito all'attività concertistica in club e clubacci di blues sparsi negli Stati Uniti. Oggi John Mayer è richiestissimo non solo dal vivo, ma anche le sue pubblicazioni discografiche vendono milioni di copie negli Stati Uniti. Speriamo di vederlo dal vivo in Italia proprio con Steve Jordan, e infatti lo ascoltiamo dal vivo qui in chiusura del nostro soundcheck, con Steve Jordan alla batteria, Pino Palladino al basso, un trio strepitoso dal vivo a Los Angeles qualche anno fa in un altro classico di Ray Charles intitolato I Got a Woman. E con John Mayer chiudiamo il soundcheck di Radio 24, quindi a tutti voi buon pomeriggio, buona giornata e buona musica da Giorgio Telespo. Steve Jordan, ladies and gentlemen. Pino Palladino playing the bass. Soundcheck. Il suono della musica.